Noi riteniamo che la scelta di portare la transizione energetica prima attraverso il gas per poi arrivare, diciamo, effettivamente alle fonti rinnovabili non sia la strada giusta. Occorre puntare direttamente sulle fonti rinnovabili e non continuare a ragionare su nuove estrazioni di gas metano. I luoghi dell'Emilia Romagna sono 4 distinti, ma non sono casuali. Si parla di Minerbio, Faenza, Ravenna e Rimini. Perché questi luoghi? Sono veramente luoghi simbolo della nostra lotta per l'uscita dal fossile. Ravenna centralmente sicuramente per l'aspetto relativo al CCS, quindi l'impianto di stoccaggio dell'anidride carbonica. Rimini perché dovrebbe essere realizzato un impianto eolico che ha previsto anche diverse variazioni rispetto al progetto originale, ma ancora non ha un via libera per la realizzazione. Sicuramente si può ridefinire meglio, riparlare del progetto, ma è un progetto che assolutamente va realizzato. Minerbio perché anche lì era presente un progetto di sovrappressione dell'impianto già esistente con stress del sottosuolo e noi vorremmo che questa cosa non proseguisse. Su Faenza ovviamente perché anche lì c'è comunque un rapporto stretto con Ravenna e di nuovo con possibilità di estrazione di gas metano. Il tema della transizione energetica è molto centrale anche in questi giorni in cui si parla di caro bollette. Certo, ovviamente il caro bollette è un problema. Ricordiamoci che in realtà l'Italia importa più del 90% del gas metano che utilizza e quindi in questo momento il caro bollette è dovuto a tantissimi aspetti, compresa l'instabilità internazionale. Ricordo che in Ucraina ci sono venti di guerra pesanti e anche in altre parti del mondo da cui poi arriva il gas metano che noi quotidianamente consumiamo. Pensare di utilizzare al massimo le riserve che noi abbiamo non risolve comunque il problema perché le nostre riserve sono estremamente scarse, si esaurirebbero in un arco di tempo brevissimo. Occorre investire per tempo sulle rinnovabili e cercare di lavorare al massimo in questa direzione. Quindi le rinnovabili sono l'unica fonte energetica che ci metterebbe al riparo dalla dipendenza dall'estero? Sono una fonte energetica sicura di cui abbiamo già tutte le tecnologie disponibili, ci garantirebbe anche l'indipendenza dall'estero certamente e questo è un assoluto vantaggio. Voi sollevate anche il tema delle fake news su questo argomento e in particolare uno si pensa anche alla questione della tassonomia europea con l'inserimento di nucleare e metano tra le fonti verdi. Sì, allora il metano sicuramente non può essere considerato una fonte verde perché il gas appunto contiene una serie di elementi che poi una volta bruciati contribuiscono in maniera pesante al cambiamento climatico, quindi non può essere in nessun caso considerato una fonte verde. Lo stesso dicasi per il nucleare, anzitutto il nucleare di nuova generazione di cui si parla non è ancora del tutto pronto, le centrali che si stanno realizzando all'estero sono anni che sono in fase di realizzazione e noi non possiamo permetterci di perdere ancora tutto questo tempo per realizzare altre centrali nucleari nel nostro paese. I riferimenti per sapere quando si svolgeranno le manifestazioni e i posti? Minerbio, il ritrovo è presso la piazzola di Via Zena alle 10:30. Per Ravenna si ritrova presso lo stradello sterrato che attraversa la Via Lacchini, sempre allo stesso orario. Faenza c'è un banchetto informativo in Piazza Duomo e Rimini invece il flash mob è nella spiaggia libera del lungomare Giuseppe di Vittorio, più o meno in prossimità del punto vela Bellariva. Il ritrovo è sempre per tutti alle 10:30.